Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso 20 gennaio è arrivato il via della conferenza Stato-Regioni al nuovo conto termico, che viene finalmente riformato dopo una lunga attesa, dato anche lo scarso successo del precedente. Il conto termico è l'incentivo dedicato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e, nel caso degli edifici pubblici, anche al miglioramento dell'involucro. Ma diamo il benvenuto ad Alberto Montanini, presidente di Assotermica, che aderisce d'anima. Buonasera Montanini. Buonasera a lei. Senta, le associazioni di categoria per una volta, diciamo, sono contente e effettivamente questo è un conto termico più semplice e più generoso, diciamo, del precedente. Francamente mi sembra anche il primo intervento netto a favore delle rinnovabili da che è iniziata l'era Renzi. Senta Montanini, stiamo su quanto il nuovo conto termico prevede per i privati. Prima di tutto, che cosa viene incentivato? Ricordiamolo. Viene incentivata la sostituzione del vecchio impianto con una pompa di calore, con un impianto a biomassa, gli scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore e impianti di climatizzazione invernali esistenti con sistemi ibridi. Con sistemi ibridi, cioè composti? Da una pompa di calore e da una caldaia a gas a condensazione, ad esempio. Il tutto comandato da un'unica centralina che ottimizza le prestazioni del prodotto. E poi ci sono i pannelli solari, quelli che fanno l'acqua calda, no? Sì. L'ho lasciato per ultimo perché ovviamente noi come Italia siamo il paese del sole e quindi dobbiamo sfruttarla in modo conveniente. Siamo il paese del sole ma non dei pannelli solari purtroppo. Come funziona più o meno questo incentivo, come ci si accede e come viene calcolato e riconosciuto anche l'incentivo stesso? L'incentivo viene affidato come gestione al GSE, cioè il gestore servizi energetici. Mm-hmm. Questo ha predisposto un portale, si chiama Portal Termico, attraverso cui si deve inserire delle schede, una serie di dati relativi proprio al proprio intervento. Entro 60 giorni dal completamento, se non ricordo male, giusto? Giusto. E diciamo l'incentivo veniva erogato fino adesso in 2 o 5 rate annuali a seconda dell'importo e della tipologia di intervento. Una delle grandi novità del nuovo conto termico è che fino a 5.000 euro di intervento questa erogazione potrà avvenire in unica soluzione. Questo è molto buono. Veniamo al vil denaro. Ecco, qual è l'entità di questo contributo dello Stato per chi adotta questo genere di tecnologie? Siccome stiamo parlando di privati, diciamo che per quanto riguarda il solare termico, adesso la copertura dell'investimento è circa del 35-38% del costo dell'installato, cioè totale dell'impianto. E considerato che il costo tipico di uno di questi impianti viene restituito tutto nel primo anno, diciamo, in linea di massima, è difficile che si superi i 5.000 euro, no? Certo. Poi per quanto riguarda le pompe di calore, diciamo che la remunerabilità è attorno al 28-30-34% del costo dell'installato, anche questo è molto interessante. Ed è soprattutto aumentato significativamente rispetto al conto termico precedente, quindi su questo è più generoso. Sul solare siamo rimasti lì, sulle pompe di calore direi che c'è stato un aumento dell'incentivo. Certo, poi c'è l'inserimento degli apparecchi ibridi che prevede appunto un 20% in più rispetto all'incentivo della sola pompa di calore. Ecco, per dare un'idea, ma naturalmente molto in soldoni, ma il tipico impianto solare quindi riceverebbe un incentivo intorno ai 1.200 euro su un costo di 3.000 e una pompa di calore potrebbe ricevere un incentivo intorno a 3.000 euro su una base di 10.000, che è un costo, diciamo, per un appartamento più o meno sensato. Dunque, senta, per capire quanto si ha diritto di incentivo, c'era bisogno col vecchio conto termico di fare un calcolo abbastanza complicato. C'è qualche miglioramento invece da questo punto di vista? C'è un miglioramento sostanziale. Per quanto riguarda gli apparecchi che hanno una potenza fino a 35 kW e i collettori solari con superficie fino a 50 metri quadrati, il GSE redigerà una lista di prodotti idonei, quindi vuol dire che se io acquisto i prodotti già compresi nella lista, l'operatore potrà accedere a questo iter semplificato e quindi non sarà più necessario indicare tutti i dati relativi alla descrizione dell'apparecchio e del pannello. Bisogna dire in che fascia climatica ci si trova e poi il resto è affidato a un calcolo standard sostanzialmente, non ci si deve più occupare di questa roba. Chiudiamo con una notizia a cui è stato dato poco rilievo, e cioè il fatto che da settembre scorso possono essere vendute solo caldaie a condensazione. Con un'unica eccezione, che sono le caldaie a gas per installazione su canne fumarie collettive ramificate, che è una tipologia presente dove non è, è proprio impossibile mettere sostanzialmente le caldaie a condensazione, senza poi entrare nei dettagli. Ma quindi oggi, se uno vuole cambiare la caldaia, è costretto a comprare una caldaia a condensazione? No, questa è una direttiva europea di messa in commercio, quindi vuol dire che se presso i magazzini dei grossisti o quelli degli installatori si trovano ancora caldaie e camera stagna, queste possono tranquillamente essere installate in privato ed essere installate. Poi però questi magazzini si svuoteranno e a quel punto si troveranno in commercio solo effettivamente entro qualche mese, quindi solo caldaie a condensazione. Sì, esatto, così. Quell'eccezione ovviamente che ho detto prima delle caldaie a camera aperta. Allora, grazie per intanto Montanini. Domani parliamo delle ricadute del nuovo conto termico sul mondo del pubblico, dove sono ancora più ampie. Molto bene. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.